boys and girls, your attention, please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa. E un saluto da Drago. Cosa c'è? Cosa? Perché mi guardi anche oggi? Ma tu sei pazzo, ma chi ti guarda? Allora, vuoi che cominci io? Cioè, vuoi, mi guardi tu, con sì, quella dai, roba comincia. Lì, comincia tu. Sì, no, comincia tu. Vabbè, allora dai, facciamo un test, ti va? Cominciamo un così. Un test. Sì, un test per calcolare la tua vera età. L'età mentale? No, l'età in generale, l'età psicofisica. È un test lungo che comprende anche delle prove fisiche. Tu quanti anni hai? Ne ho... Ah, ok, vediamo se l'età che risulterà dal test sarà inferiore o superiore a... Il test è stato elaborato dalla psicologa Brunella Gasperini, e non guardarmi così perché è un'omonima, non è la famosa giornalista, quella degli anni 70, anche perché quella, Brunella Gasperini... È morto. È morta, non è morta. È morta, sì. Vabbè, vabbè. Allora, siamo pronti per il test. Pronto, dai, vai, vai, vai, vai, vai. Dimmi in un minuto tutte le parole che ti vengono in mente che iniziano con la lettera F. Non valgono i nomi propri di persone e di luogo, e non vale nemmeno la parola più ovvia. Cioè? Ma niente, niente, lascia perdere. No, deve cominciare con la F. Sì, però quella parola non vale. Ma scusa, poi chi te lo dice che io avrei detto quella parola lì? Non sorridere. Ma non sono io, è proprio... Cos'è? No, è il test che dice, proprio testuale, che quella parola non vale. Ma chi l'ha fatto sto test? Allora, le regole dicono... non Brunella Gasperini. Ah, già. Allora, le regole dicono non valgono i nomi propri di persona e di luogo e non vale la parola più ovvia. Io credo di interpretare giusto, pensando a una parola in particolare. Sì, vabbè. Però non so, non è molto chiaro. Comunque, per essere sicuri, tu quella parola lì non la usi, ok? Dai, vai. Va bene. Ferrari, no, Ferrari cosa vuol fenotipo, dire? Sì, fenotipo. Fenoglio, Beppe Fenoglio. Ma no, i nomi non vanno bene. Allora. Finestra, finestra. Farina, sì. Farabutto, sì. Fanfarone, sì. Fanfara, sì. Fagotto, sì. Fiati, sì. Flauto, sì. Flauto traverso, flauto dolce. Vabbè. Flauto, no. L'ottavino è un flauto. No, ma il flauto, no. Vabbè, abbiamo già perso. Io adesso mi sono perso sui minuti, non so quanto è passato. Troppo. Hai detto tipo 9 parole, però in realtà poi guardando bene mi sono accorto che il test è rivolto a quelli che hanno più di 50 anni e tu ne hai solo... E quindi? E quindi niente, non serve un tubo. L'angolo della poesia. E ora Drago ci leggerà La terra desolata di Thomas Stearns Eliot. Aprile è il mese dell'intestino sano. Ma Tito, ma Drago, ma non è così. Ma come no? Ma no, era aprile è il mese più crudele dell'anno. Ah sì, hai ragione. No, però poi sono stato sviato dalla pubblicità di uno yogurt, vedi? Tira via le mani. Aprile è il mese dell'intestino sano. È per quello io mi sono confuso. Ma secondo te si ispiravano alla poesia in modo... non so. Sì, può darsi anche, perché capito. Comunque non è che mi risulti proprio essere aprile il mese dell'intestino sano. Adesso è aprile e... E tu? No, c'è un po' di difficoltà. Ah, sì? Sì, ma io non noto differenze tra un mese e l'altro. Vado sempre bene. No, aprile sono... proprio il mese quello... è un mese molto duro, no? È un mese... duro, sì, difficile, diceva Eliot, molto duro. A proposito, c'è una poesia sulla sì. durezza, che è una poesia che insegnano a tutti i bambini in tutti gli asili del mondo. Ma che poesia è? La poesia dell'indiano, quello come si chiama? Bravashira Yamalata. Ma sì, la sa anche il bambino Alberto. Fecalona. Pietra dura, tu. Pietra rara, tu. Fecaloma, fecaloma. Roccia pura, tu. Roccia nuda, tu. Fecaloma, fecaloma. Sasso eterno, tu. Sasso interno, tu. Fecaloma. Oh, fecaloma. Ce l'hanno fatta, K. Ma chi? Cosa? I figli dei fiori, cioè gli ex, figli dei fiori, no? Gli ex fricchettoni, attuali seguaci della New Age, ce l'hanno fatta. A far cosa? Lo yoga entra nelle scuole italiane come materia di insegnamento. Ma come? Ma se hai 5 di yoga poi ti promuovono? Sì, ma tu poi pensa ai figli di gente qualunque, sai quelli che hanno sempre visto un po' di cattivo occhio le discipline orientali, Te li vedi, figli di questi che si mettono in cameretta con l'incenso a gambe incrociate a meditare Entra di botto il padre. Cosa stai facendo lì? Ti droghi? Domani ho il compito di yoga e sto studiando. Se continui così, mi diventi culattone. Ma lo sono già, culattone. A parte gli scherzi, lo yoga in classe è una vittoria dei tipi strani, K. Cioè, è l'ultima estrema vittoria dei fricchettoni, secondo ma, guarda, me. Perché... anche dei fighetti, eh. Cioè? Ma non è che lo yoga lo facciano solo i vecchi hippie. Sono anche fighetti avvocati, architetti, professori, filosofi, vabbè, consulenti radiofonici. Anche idraulici e panettieri, se per quello. E quindi? E quindi, prima ho detto una cazzata. Non è una vittoria dei fricchettoni, è una vittoria di chi ama praticare lo yoga. Boh, basta. Vabbè, male non può fare, no? Io ho mai fatto yoga. Ma io nemmeno. E forse si vede. Parla per te. Io non riesco nemmeno a toccarmi la punta dei piedi, guarda qui, eh. Aia! Aia! Ma cos'è? Aia, non riesco più a muovermi, capo, aiutami! Aia, sti fare un po' di yoga. Ma che bella bicicletta! Fortunato, te beato! Che regalo straordinario! Che peccato che funzioni all'incontrario! Tu pedali qui davanti, ti mostri, ti vanti, ma un idiota che va a piedi non lo vedi, mentre ora tutto il mondo guarda e aspetta un idiota su una bella bicicletta. Bicycle, bicycle, bicycle, I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle. Fatto dopo con calma, come uso fare, come abbiamo fatto con Fabrizio. Però che è successo? Quando sono passato ho fatto anche lo sfottò, l'applausino, lo sfottò. Allora lì ho detto, ma allora è troppo, bisogna che vada a chiarire subito. Perché non è né sportivo né elegante, poi molto da bambino secondo me. Lui mi ha visto benissimo perché si era appena girato indietro, quindi mi ha assolutamente visto. Si è messo in mezzo alla traiettoria proprio andando piano, a un metro dal cordolo, in modo di non farmi passare all'interno e... già con la mano alzata, quindi questo, come ho detto, secondo me non è sportivo, però si è dimostrato, diciamo, la sua personalità. Ok, gli ho chiesto scusa perché gli ho rovinato un giro, va bene, era appena entrato io. Ma che dopo lui ti viene a cercare, che ti viene a puntare due volte, non una volta, la dimostrazione che andando lunga anche lui significa che ti voleva proprio portare fuori curva, diciamo, come un fallo di reazione nel calcio. Era proprio cercare, questo è tipico di chi cerca proprio lo scontro. Io non ho capito niente di tutto questo. Tu di moto non capisci chi erano niente, alla fine sti due qui? Allora, te l'ho detto, Max Biaggi e Marco Melandri, sì. Capito? Ora gareggiano nella categoria Superbike. Superbike, sì, cos'è? Una roba a parte rispetto a... Sì, ci vanno i vecchi un po' lì. Però insomma, e sono quasi venuti alle mani perché uno ha rovinato il giro dell'altro e poi è andato a sfotterlo con la mano, capito? Cose da bambini, l'ha detto anche uno dei due. Sì, cose da bambini, ma insomma in moto si fa. Tipo, io faccio le impennate meglio di te, tu mi hai tagliato la strada... Ma pensare che Biaggi, per l'età che ha, ormai potrebbe essere tranquillamente in pensione a dare da mangiare ai piccioni sul Lungotevere. No, magari litiga anche coi piccioni. Ti ho chiesto l'amicizia, hai visto il mio profilo. Mi hai detto troppo grasso, perdi qualche chilo. Chiedo asilo. Grazie per queste quartine. Banana! Cos'è la banana? Torniamo domani. Lascia stare la banana, che è il frutto dell'amore. E quindi? Chiedo asilo. Chiedo asilo è tradio24.it.